Assolutamente voglio riconfermarmi campione olimpico, perché è troppo bello essere campioni olimpici, e l'ho provato a Pechino e vorrei riprovarlo a Londra. Sono una delle punte però della squadra, perché quest'anno, ormai come quest'anno, sono tutti forti. Vorrei riprovare la stessa emozione con il pubblico di casa che mi applaude.